FM presenta Country Skyline. Buonasera, buonasera cari ascoltatori di Rock FM, ben sintonizzati sulle magiche frequenze di questa magica emittente radiofonica che vi tiene compagnia sicuramente almeno 16 ore al giorno. Ve ne diamo 8 per dormire, ma solo 8, non un minuto di più. Fortunati voi toscani, fortunati voi liguri, milanesi, emiliani, che riuscite a sintonizzarvi. Tutti gli altri devono farlo attraverso internet. E fortunati voi che, passando per caso, avete sentito questa sigla e vi siete chiesti: sarà mica una trasmissione di country music? Sì, voi siete magari fortunati perché l'avete scoperta per caso. Gli altri, fedelissimi, sono quasi 13 anni che l'ascoltano. Sì, perché Country Skyline, l'appuntamento settimanale con la country music e il roots music, va in onda esattamente da 13 anni. Era fine del 93, pensate come vola il tempo. Una ricetta che non ha subito grandi modifiche, a volte aggiungevo qualcosina, a qualche altra volta toglievo qualcos'altro. Piuttosto i grandi cambiamenti che ha subito sono relativi al giorno di trasmissione piuttosto che al contenuto, perché il contenuto, insomma, è bella musica, la country music e la roots music assolutamente bistrattata, ignorata dalla radiofonia nazionale, è una musica che appassiona, che piace, e lo dimostrano gli ascoltatori di Rock FM, gli ascoltatori fedelissimi di Country Skyline, che spesso e volentieri si fanno anche sentire via SMS al 338-6171-300 o magari via email. E questi canali si possono utilizzare per fare richieste, cosa che è stato fatto per quanto riguarda Alan Jackson. E come vuole tradizione, si comincia con il country made in Nashville. Eccolo qui, un re della country music. Dico uno perché ce ne sono diversi. Questo è uno dei miei preferiti, uno dei vostri preferiti. Alan Jackson. If money grew on hackberry trees, and time wasn't such a luxury, if love was lovesick over me, that'd be alright. Keep a hold of the tiger by the tail. I have a ham sandwich in my lunch pail. That'll be alright. Yeah, that'll be alright. That'll be alright. If everybody everywhere had a lighter load to bear and a little bigger piece of the pie, we'd be living us a pretty good life. Alright. If my dear old dog never got old, if the family farm never got sold, another bad joke never got told, that'd be alright. Yeah, that'd be alright. Yeah, that'd be alright. If everybody everywhere had a lighter load to bear and a little bigger piece of the pie, all right. e si va sul sicuro, davvero si va sul sicuro. Con Alan Jackson si va sul sicuro. Potete entrare nel vostro negozio di dischi preferito, quel negozio che tratta anche country music, e potete così ad occhi chiusi scegliere qualunque dei dischi registrati dal georgiano Alan Jackson, classe 1958. A partire dal 1989 ne ha registrati una quindicina. Pensate che dal 2002, anno in cui è uscito questo Drive, dal quale abbiamo ascoltato una canzoncina che tanto ricordava la Louisiana con l'accordeone, con il violino. That'll Be All Right era il brano tratto da Drive, che è del 2002, dicevo, ecco, dal 2002 ne ha registrati altri quattro: uno natalizio, uno gospel, un altro diciamo normale, che in linea con la sua classica discografia, e un altro che è nuovo di zecca del 2006, ma uscito pochissimo tempo fa, Like Red on a Rose. Ecco, a parte un paio di episodi, il livello è sempre altissimo, e quel paio di episodi non vuol dire che siano brutti, sono semplicemente un po' meno interessanti di quelli meravigliosi. E adesso una voce maschile, abbiamo ascoltato una delle più belle voci maschili del panorama country nashvilliano, una nuova stellina che splende, è dal 2004, unico disco ancora registrato per Gretchen Wilson. Ladies and gentlemen, Redneck Woman. Christmas lights on my front porch all year long, and I know all the words to every Tanya Tucker song. So here's to all Questa era la brava Gretchen Wilson. Hey, hey. Gretchen Wilson che con questa canzone intitolata Redneck Woman, la nostra Gretchen Wilson nel 2004 si è rivelata essere la prima cantante donna ad arrivare in cima alla classifica dei singoli country dopo ben due anni, singoli country di Billboard, dopo ben due anni che era solo a disposizione dei maschietti la cima della classifica. Ecco, lei di Pocahontas, Illinois, del classe 1973, ha inciso questo disco Here for the Party, dove spicca appunto questo singolo Redneck Woman. E qui siamo nel 2004, dal 2004 inciso per la Epic Records. Questo disco non ha avuto alcun seguito. Voglio sperare, perché i numeri li avete sentiti, l'avete sentito bene, i numeri questa signorina li ha, e come se li ha, Gretchen Wilson, voglio sperare che abbia un seguito molto molto molto presto. Chissà invece per quest'altra. Si autoproduce Ashley Robertson, Living in Misery. And you're listening to Country Skyline. Making up time, yeah, the time I lost while I was away, baby, you were alone. I'm a rolling home, be there tonight, baby, all night long. I'll be making up time. This long without you, nights and lonely days go crawling by. But don't get pictures sticking out of my headline there. Well, it sure does make the mile marker fly on by. Making up time, yeah, the time I lost while I was away. I'm a rogue. baby. Call your boss, tell him you can't make it. Tell him something come up and you gotta tend to it tonight. Oh, making up time, yeah, the time I lost while I was away. Baby, you were alone. I'm rolling home, be there tonight. Baby, all night long, I'll be making up time. Dale Watson, anche lui questa sera a Country Skyline. Voi ci siete? Sì, a giudicare dai messaggi, sono tantissimi. C'è qualcuno che si lamenta della ricezione, ma con una radiolina transistor riusciamo ad ascoltarti. Qualcuno consiglia Mark Chestnut, qualcuno fa i complimenti alle canzoni soprattutto. E io i complimenti li faccio a voi che fedelissimi vi sintonizzate sulle frequenze di Rock FM dalle 23 alle 24, da lunedì a venerdì particolarmente, dove il Faulisi in questa fascia oraria la fa un po' da padrone con una serie di generi musicali che sono un po' così, un'isola felice per chi riesce a sintonizzarsi su questa radio, perché sono canzoni che altrimenti si possono ascoltare soltanto attraverso i dischi che uno va a comprarsi. Eh sì, questa è la realtà. Fortunatamente c'è Country Skyline, fortunatamente c'è anche Good Rockin' Tonight e fortunatamente al mercoledì, e saluto il Matthews a caso mai fosse all'ascolto, con il mio amico il Matthews, il mercoledì va in onda Garageland e rock and roll quello cattivo, dai primi anni 60 fino ad oggi, fino al punk and roll, invece qualcosa che succede prima degli anni 60, anni 40 e 50, lo ascoltate il giovedì e anche il lunedì in Good Rocking Tonight. Colin Ray, un grande che ha perso il contratto con la major, ma che si difende bene anche con una indie. Questo è Colin Ray. Everyone tells them they're too young to know about the ways of the world and curves that fate can throw. They never ask for much with their backs against the wall. He turns to her, says, baby, tonight let's take it all. 'Cause tonight we are as young as we're ever gonna be. These may be the best days of our lives. As bravissimo, bravissimo, bravissimo. Questo era Colin Ray, che ricordava da vicino in questo brano particolarmente, come già mi è capitato così di segnalare. Ricordava da vicino, ma ve ne sarete anche accorti, il boss, lui, Bruce Springsteen. Questa canzone intitolata Young As We Ever Gonna Be, Colin Ray da Fearless, che è di un paio di anni fa, comunque piuttosto nuovo. Citavo le trasmissioni che vanno in onda condotte dal sottoscritto durante la fascia oraria dalle 23 alle 24 e parlavo anche di Good Rockin' Tonight. Ecco, l'ultimo Good Rockin' Tonight, quello di giovedì scorso, ho dedicato la trasmissione quasi interamente alle donne del rock and roll, ma all'interno di questa grande special ho voluto ritagliare una parentesi di rock and roll cantato a cappella, quindi senza alcun accompagnamento strumentale. E ho voluto prendere, ho dovuto prendere perché sono bellissime, un paio di canzoni di un paio di gruppi bluegrass, uno è i Third Time Out, l'altro i Chapmans. Ecco, visto che in quell'occasione i Third Time Out eseguivano una canzone dei Platters, la famosissima Only You, mentre i Chapmans erano alle prese con un altro classico di Sam Cooke, You Send Me. Da quel disco, che non ho neanche tirato fuori dalla borsa, l'ho lasciato lì perché vogliamo sentirli questa volta in versione bluegrass, ma sentite quanto sono forti i Chapmans e sentiamoli con Follow Me to Tennessee.